Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a ciascuno di voi un cordiale saluto. Anche in questo lunedì ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Marco con gli obiettivi che ci diamo solitamente in questa trasmissione. L'obiettivo, ve lo ricordo, è quello di prima di tutto approfondire il testo biblico cercando di capire le sfumature che si nascondono dietro le traduzioni che noi abbiamo disponibili. Un altro obiettivo è quello di mettere in contatto la parola di Dio con la nostra vita, perché questa parola non abbia a scaldare solo la mente, ma a toccare il cuore, suscitando in qualche modo anche qualche atteggiamento, qualche nostro cambiamento delle disposizioni di fondo. E infine un altro obiettivo è proprio quello di arricchirci vicendevolmente, per cui nell'ascolto dell'unica parola è importante, sarà importante non solo la riflessione che io conduco sui testi, ma anche i vostri interventi, le vostre domande. L'abbiamo sperimentato anche nelle trasmissioni precedenti. Ogni domanda porta sempre un interrogativo che è un arricchimento per tutti e permette di approfondire magari alcuni risvolti che non sono stati considerati. Arriviamo tutti da una giornata che sicuramente è stata intensa, faticosa, quindi la prima cosa da fare di fronte alla parola di Dio è quella di invocare lo Spirito. Invocare lo Spirito perché le nostre resistenze, i nostri limiti, i nostri peccati non siano di ostacolo alla luminosità di questa parola che invece vuole scaldare il cuore, vuole essere efficace in ciascuno di noi. Il tema che tratteremo oggi è un tema delicato, perché rifletteremo, sosteremo sulla pagina in cui Gesù si trova al Getsemani, una pagina che parla di abbandono di Gesù, Gesù che viene abbandonato dai discepoli, quindi da coloro che dovevano essergli più vicini, viene abbandonato dalle persone quindi che dovrebbero amarlo, esperienza dell'abbandono che per certi aspetti è anche esperienza del tradimento, perché Gesù viene tradito nel momento di una scelta difficile, nel momento in cui forse ha più bisogno della vicinanza dei suoi amici. Anche dal Padre, Gesù al Getsemani sarà abbandonato dal Padre, vedremo come qui la traduzione gioca un ruolo importante. Quindi entriamo su temi ed esperienze che bene o male ci toccano da vicino, tutti fanno esperienza nella loro vita, nella propria vita, del tradimento degli amici, dell'abbandono nei momenti magari in cui si avrebbe più bisogno della vicinanza altrui, della sofferenza e della solitudine. Proprio per questo il commento a questa pagina di Marco richiede un tatto particolare, quindi spero nel mio commento di non rovinare questa pagina molto intensa e molto ricca. Chiedo a chi è nella possibilità di farlo di prendere in mano come sempre un'edizione della Bibbia o dei Vangeli, aprendola al capitolo 14 di Marco. Proprio perché questa pagina è intensa leggeremo solo un piccolo brano, i versetti dal 32 al 42, sono 10 versetti. Lo scandiremo in tre momenti in modo da approfondirlo il più possibile. Ricordo che il brano, l'episodio del Getsemani, si trova all'interno della sesta sezione narrativa del Vangelo di Marco, quella che prepara l'ultimo grande arco narrativo, che è quello del mistero pasquale, e questa sezione narrativa, la sesta, che è iniziata col primo versetto del capitolo 14, si snoda attorno a tre grandi banchetti. Il banchetto di Betania è il primo che abbiamo commentato due mesi fa, il secondo banchetto è il banchetto dell'Eucaristia, quindi l'ultima cena che abbiamo commentato la volta scorsa, e il terzo, fra virgolette, banchetto è il momento del Getsemani, dove Gesù si trova tu per tu con il Padre, e dove l'elemento chiave del banchetto è la vita stessa del Cristo e il calice che gli viene offerto. Quindi cominciamo subito a leggere la prima parte di questi versetti, i versetti che vanno praticamente dal 32 al 36. Giunsero in un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere preso da terrore e angoscia. Disse loro: sono triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Andando un poco innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. Diceva: Abba, Padre, a te tutto è possibile, risparmiami questo calice. Tuttavia non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi. Ecco, cominciamo da questo primo momento, il primo momento in cui Gesù entra in questo podere chiamato Getsemani e stabilisce dei rapporti di vicinanza un po' particolari con i suoi discepoli. Possiamo dire che, se dovessimo immaginarci la scena vista dall'alto, questa scena si può costruire attorno a tre cerchi concentrici. Un cerchio più ampio, che è quello di tutti i discepoli, che stanno più lontani, vengono fermati all'ingresso di questa proprietà, che non sappiamo a chi appartenesse. Un secondo cerchio di discepoli più vicini, che è quello di Pietro, Giacomo e Giovanni, che Gesù porta con sé, e poi l'ultimo, il nucleo di questi tre cerchi concentrici, che è il rapporto tra Gesù e il Padre. Quindi tre diversi livelli di vicinanza: ci sono gli undici, ci sono i tre e poi c'è il rapporto con il Padre. Quello che emerge subito in questo racconto è il profondo bisogno di condivisione che caratterizza la vicenda di Gesù. Cioè, Gesù entra nel momento della sua passione con un profondo bisogno di vicinanza umana. E questo è un tratto specifico dell'Evangelista Marco. Se voi notate, tutti gli elementi che caratterizzano la descrizione della scena sottolineano il bisogno della vicinanza fisica dei discepoli. Gesù, notate, ne porta con sé tre, dice al gruppo: restate qui, sedetevi qui mentre io prego, ma non va a pregare da solo, porta con sé tre persone. E il verbo stesso greco che viene utilizzato per dire prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, quel prese è il verbo paralambano, che non significa prendere, prendere è lambano in greco, ma paralambano significa prendere vicino, quindi Gesù prese vicino con sé appunto questi tre discepoli, perché stessero con lui, quindi c'è un'ulteriore sottolineatura di questo elemento. E notate, il primo invito che fa ai discepoli, quando li porta con sé, cioè Pietro, Giacomo e Giovanni, disse loro: restate qui e vegliate. Il primo invito non è praticamente quello della veglia, che pure è importante, ma è quello del restare qui, cioè quello del rimanere vicino a Gesù. Questa vicinanza è poi ulteriormente enfatizzata dal fatto che Gesù va solo un poco innanzi, addirittura la terminologia greca utilizzata dall'Evangelista Marco è mikron, cioè va avanti ma proprio un pochino solo, per dire c'è bisogno di questa vicinanza, di non staccarsi da questi tre, Gesù si sente solo. E questo bisogno di vicinanza è manifestato anche dalla condivisione del sentimento. Disse loro: sono triste fino alla morte. Ecco, il fatto di dire sono triste, il fatto di dire sto male, è un modo per richiedere all'altro la vicinanza in un momento così delicato. La vicinanza in un momento così delicato. E vedremo che gli amici per eccellenza di Gesù vengono meno proprio su questo punto, non riescono a cogliere che dalla parte del loro maestro, della persona che più amano in quel momento, viene tesa la mano per una richiesta di aiuto, che si manifesta anche in quel dire sono triste fino alla morte. Ecco, sappiamo tutti bene che quando si sta soffrendo non è facile condividere con l'altro la propria esperienza di sofferenza. Se uno riflette su di sé, sappiamo che è esperienza comune di tutti. Quando soffriamo tendiamo a chiuderci, a isolarci dagli altri. Gesù invece è significativo, nel momento massimo della sofferenza cosa fa? Si apre agli altri, si apre a coloro che gli stanno più vicini, quindi si apre a Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono le persone che in quel momento sono in grado di recepire maggiormente quello che Gesù porta dentro di sé, e si apre con il Padre. Quindi cerca di consegnarsi, di mettersi nelle loro mani. E il modo in cui Gesù stesso presenta la sua situazione di sofferenza è significativo. Dice Gesù: sono triste fino alla morte. Questa espressione in greco non significa che Gesù desidera la morte. Alcuni hanno messo in associazione questo versetto con il brano di Giona che fugge, al posto di andare a Ninive va nella direzione opposta e cerca la morte. Gesù non cerca la morte, tanto vero che chiede al Padre di risparmiargli quel calice, ma l'espressione greca che viene tradotta con sono triste fino alla morte significa che sono triste, che più triste non si può, cioè è un superlativo di questa situazione di angoscia che sta vivendo e che è stata evidenziata anche al versetto 33 dicendo cominciò a essere preso da terrore e angoscia, con un cambiamento anche dei tempi verbali. Si passa da un presente che praticamente scandisce il testo come se ci presentasse degli eventi in continuità, a un aorista, cioè tipo un tempo puntuale, che dice che in quel preciso momento viene assalito, viene preso da terrore e angoscia. Sono modalità narrative che servono all'evangelista per sottolineare l'angoscia di Gesù. Tutti questi elementi non li troviamo negli altri evangelisti. Se voi andate ad esempio nel Vangelo di Luca, notate come il Vangelo di Luca ha tutto l'interesse per evidenziare non la solitudine di Gesù, ma la condivisione, soprattutto del Padre, questo angelo che scende dal cielo a consolarlo, questo Gesù che si allontana non un pochino dai suoi discepoli, ma quasi un tiro di sasso è tanto. Cioè Luca sembra non aver recepito, o magari l'ha recepito, ma volutamente non lo riporta nella sua narrazione, sembra non recepire il messaggio che invece Marco vuole dare. Gesù entra nell'esperienza del Getsemani vivendo l'esperienza dell'abbandono, della solitudine e della sofferenza. Tutto questo concretizza nell'esperienza di vita di Gesù il luogo in cui sono entrati. Getsemani, sappiamo, significa frantoio dell'olio, giardino del frantoio meglio, e praticamente l'oliva che in questo momento, le olive che in questo momento stanno per essere schiacciate, altro non è che la vita del Maestro. È da lì che uscirà poi l'olio nuovo della sua unzione a Messia, re, sacerdote, profeta per tutta l'umanità. Quindi è qui importante sottolineare quello che Gesù sta vivendo. Significativa anche la preghiera che Gesù innalza al Padre, si rivolge al Padre chiamandolo non solo con il titolo di padre, ma con l'equivalente aramaico di questo titolo, Abba. Senza voler tradurre questo termine in altre espressioni, alcuni lo traducono con babbo sottolineando l'elemento affettivo, però questo non è importante per noi in questo momento, è significativo però che Gesù utilizzi un'esperienza, un'espressione aramaica. L'aramaico è il dialetto, la lingua affettiva di Gesù, Quindi il fatto che Gesù si esprima con il Padre, richiamando l'aramaico, indica che in quel momento Gesù cerca una particolare relazione con il Padre. Quindi da un lato c'è la ricerca della condivisione dei discepoli, condividendo con loro il suo star male, quello che lui sta vivendo dentro di sé. Dall'altro c'è il bisogno della condivisione con il Padre, dicendo, usando nei confronti del Padre, la lingua del bimbo, la lingua affettiva, è la lingua materna, quindi l'elemento Abba. Sappiamo che su questa espressione c'è tutta una lunga bibliografia di studi che sottolineano come questa espressione è una di quelle espressioni sicuramente attribuibili a Gesù, dove la mano dell'Evangelista ha poco a che fare, proprio perché è un modo inusuale di rivolgersi a Dio, anche se le ultime ricerche dimostrano che non è un titolo del tutto sconosciuto nel mondo ebraico, anzi è un titolo che veniva utilizzato, però proprio in queste relazioni molto particolari tra i figli e il padre. Nello stesso tempo, proprio perché questa sintonia con il padre è forte, Gesù non si limita a invocare il padre, ma gli chiede quello che concretamente, in quel momento sembra nascere dal cuore: risparmiami questo calice. Questa espressione risparmiami e il verbo greco che viene utilizzato rimanda ad alcune scene ben precise della narrazione antico testamentaria. Ci sono due momenti in cui nella narrazione antico testamentaria viene richiesto a Dio di risparmiare qualcuno, e sono: il primo è la grande scena del Monte Moria, che vede coinvolto Abramo. In quel momento viene risparmiato il figlio prediletto, il figlio amato, Isacco. La seconda scena che viene evocata è la scena dell'Egitto, della fuga dell'Egitto. Prima della fuga dell'Egitto, sappiamo, una delle ultime piaghe è quella della morte dei primogeniti, e viene chiesto a Dio di risparmiare i primogeniti del popolo di Israele attraverso appunto il segno del sangue che l'angelo sterminatore, passando in Egitto, troverà sugli stipiti delle porte. Quindi due momenti in cui vengono risparmiati i figli primogeniti e che sembrano riecheggiare nella preghiera di Gesù. Gesù, in altre parole, sembra evocare queste pagine dell'Antico Testamento in cui il figlio amato, il figlio prediletto, così Dio aveva definito Gesù al momento del battesimo e al momento anche della trasfigurazione, quindi vengono evocati due momenti della narrazione antico-testamentale in cui il primogenito è stato risparmiato. E allora Gesù chiede che anche per lui in quel momento sia risparmiato il calice amaro della morte che gli sta per essere offerto. Ma subito viene precisato: tuttavia non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi. E qui sta tutta la grandezza di questa preghiera. Gesù che mette in secondo piano il proprio io e cerca di capire cosa dietro quella sofferenza, dietro quell'abbandono, dietro quella situazione senza motivo, senza ragioni umane, nel senso che le ragioni umane non bastano per dare una motivazione a quello che Gesù sta vivendo, perché vivrà tutta una serie di situazioni ingiuste. Gesù mette in secondo piano tutto questo, cercando di porre al centro la volontà divina e di cogliere dietro la volontà divina un possibile segno di quello che è una possibile chiave di lettura per quello che gli sta succedendo e che lo sta portando alla famosa ora che qui viene evocata. Quindi tutto questo è quello che il brano ci porta a riflettere. Ora, prima di procedere, facciamo un breve stacco musicale. Vi chiederei, proprio mentre ci sarà questo breve stacco musicale, di rileggere questi pochi versetti. Abbiamo letto solo dal 32 al 36, cercando proprio di rileggerli con questa chiave di lettura: il bisogno di condivisione da parte di Gesù, e questo ci darà modo poi di sottolineare subito dopo la profonda solitudine in cui Gesù si trova, proprio perché la risposta dei discepoli sarà molto diversa. Allora, un breve stacco musicale, dopodiché ritorniamo nella lettura e nel commento di questo brano. Ecco, dopo aver letto e ripercorso questi versetti che sottolineano l'esperienza in cui Gesù entra, ascoltiamo ora come continua la narrazione, soprattutto ascoltiamo quale tipo di reazione offrono i discepoli. Leggiamo ora i versetti dal 37 al 40. Tornato, li trovò che dormivano. Disse a Pietro: Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito infatti è pronto, ma la carne è debole. Andandosene di nuovo, pregò con le medesime parole. Tornato di nuovo, li trovò che dormivano. I loro occhi infatti erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Ecco, questa è la seconda sezione su cui ci vogliamo soffermare. Sono anche qua solo quattro versetti, ma di un'intensità enorme. Notiamo subito che la reazione dei discepoli è una reazione assurda, da un punto di vista anche qui puramente umano, razionale. Quello che pesa in questo brano è l'assenza totale di comunicazione, è l'assenza totale di una parola, di un perché, di un motivo, di una motivazione. Gesù torna per tre volte, li sveglierà, non si limita a tornare, li vuole svegliare, li vuole presenti, ha bisogno della loro presenza. E i discepoli dormono, ci viene detto, hanno il cuore appesantito, non solo i loro occhi erano appesantiti, ma la cosa più pesante di questo brano è non sapevano cosa rispondergli. C'è questo silenzio che cala pesante come piombo su quello che Gesù sta vivendo. Non ha un feedback, non ha uno spazio, il silenzio diventa la non accoglienza di quello che lui sta vivendo, il silenzio diventa un muro che chiude Gesù e lascia Gesù nella totale solitudine, la mancanza di uno spazio accogliente. Bastava che i discepoli dicessero una parola, ponessero una domanda, anche solo una domanda, per capire che cosa stava succedendo al loro maestro. Niente, da parte dei discepoli non c'è niente, c'è tabula rasa, c'è un foglio bianco, non sanno parlare, non sanno condividere. E più di tutti non sa condividere la persona per eccellenza, Simone. Gesù ha portato con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Sappiamo, non sono persone qualunque, sono persone che nei momenti più significativi della missione pubblica di Gesù hanno vissuto esperienze forti, sono stati testimoni della risurrezione della figlia di Gairo, dell'episodio della trasfigurazione. Giacomo e Giovanni si erano addirittura dichiarati pronti a bere il calice di Gesù, un tema che tra l'altro torna proprio in questo brano dove si parla del calice. Ora, tutti questi, di fronte a quello che sta succedendo al maestro, si ritirano, non sanno dire una parola. Pietro, che in altre occasioni aveva parlato a proposito e a sproposito, ora tace. Non sa nemmeno rispondere alla domanda di Gesù: ma Simone, dormi, non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola? Qui gli studiosi si sono molto interrogati sul significato di questa reazione da parte dei discepoli. Come mai il silenzio? Come mai il sonno? Se noi ripercorriamo la narrazione dell'Evangelo secondo Marco, notiamo che il silenzio in genere non è la prima volta che succede. Gesù, in altre parole, in questo momento dolorosissimo, non sta facendo altro che raccogliere quello che già aveva intuito altre volte. C'erano stati altri momenti di crisi con i discepoli, di difficoltà nella relazione, E cosa era successo negli altri momenti? Era successa la stessa cosa. I discepoli avevano smesso di parlare. Posti di fronte alla situazione, al perché di Gesù, alla richiesta di chiarimento, si erano rifugiati nel silenzio. Poi tutto era ripreso, come se niente fosse. Ma ora, quel silenzio chiede il conto. Il silenzio lo abbiamo notato soprattutto nel momento in cui Gesù anticipava il racconto della sua passione, morte e risurrezione. Di fronte agli annunci della passione, il silenzio era sempre stato una costante. Ed ora che quell'annuncio della pagina dolorosa, dovuta alla scelta che Gesù sta per fare, si pone, ora che il calice sta per essere offerto, nel senso che Gesù sta facendo una scelta radicale, quel silenzio diventa altrettanto radicale. E allora Gesù entra da solo in quella scelta. Poi c'è il discorso del sonno. Cosa significa il sonno? Il sonno, nella così rilettura che fanno gli esegeti, si muove, viene interpretato in base a due chiavi interpretative. La prima chiave interpretativa è un po' di carattere psicologico. Il sonno che cos'è se non il rifiuto di vivere quello specifico momento? Se voi notate, le persone che hanno un problema di depressione o le persone che si trovano in un periodo particolarmente prostrato della loro vita, dormono, sono persone che in genere cercano spazi di sonno, cercano ambienti bui. Perché? Perché la tentazione è di ritirarsi dalla scena del mondo, di chiudersi in se stessi, quello che dicevo prima, e quindi uno vuole dormire. Ci sono anche alcuni episodi dell'Antico Testamento molto significativi in merito. Se non ricordo male, c'è proprio un episodio che riguarda Acaz con la consorte Gizzabene, no? nel famoso episodio della lotta contro Elia, che è urtato dal modo di fare di Elia, che lo smaschera in tutti i suoi progetti, e in una di queste scene se ne torna a casa umiliato dal profeta, umiliato da un no di una persona che non gli vuole vendere il suo terreno, e il racconto biblico narra proprio che il re sale nella sua stanza, si corica nel letto, gira la faccia contro il muro e si rifiuta di mangiare e continua a dormire. Un altro episodio simile è quando a Davide muore il figlio di Bersabea, e succede anche in quel caso che Davide si ritira nella sua stanza da letto, si chiude in un sonno continuo e non vuole più affrontare le responsabilità di Stato. Tutte scene che sono molto simili a questa. I discepoli si chiudono nel sonno per non affrontare la situazione, per non far fronte alla cosa. Invece di affrontarla insieme al Maestro, si chiudono in loro stessi, dimostrando praticamente il fallimento totale della loro relazione con Gesù. C'è però un'altra scena che ricorda questo passaggio del Getsemane, ed è una scena che ha a che fare ancora con Abramo. Ricordate, Abramo è l'emblema dell'uomo di fede. Al capitolo 15 del libro della Genesi, di fronte al rinnovarsi della promessa di Dio che dice ad Abramo che lui comunque sarà padre di una moltitudine di popoli, nonostante gli anni passano e nonostante siano passati ben 10 anni da quando lui aveva ricevuto questa promessa e aveva lasciato tutto per seguire la promessa che Dio gli aveva dato, ecco, in uno di questi passaggi, al capitolo 15, Abramo chiederà a Dio: bene, ma come faccio a sapere che tu me ne darai il possesso? Qual è il segno che tu mi darai una discendenza, che tu mi darai una terra? E allora c'è quella famosa scena, la scena in cui Dio invita ad Abramo a prendere tutta una serie di animali, a dividerli in due e a metterli proprio di fronte a loro due. Sapete, era nell'Antico Testamento uno dei patti più forti che si potevano stringere tra due contraenti, era l'alleanza. E una delle alleanze più forti era l'alleanza di sangue, che veniva fatta proprio in questo modo. gli animali venivano squartati, messi davanti, messi per terra, e in mezzo agli animali squartati passavano i due contraenti, dicendo in questo modo che se uno dei due non manteneva la promessa di quel patto, non manteneva quel patto, non manteneva la fedeltà a quell'alleanza, avrebbe fatto la fine di quegli animali, cioè sarebbe stato squartato. Ora, qui l'alleanza, il tema dell'alleanza è la promessa della terra e della discendenza. Abramo dovrebbe passare in mezzo per stringere anche lui l'alleanza con Dio, e succede che nel momento in cui deve passare in mezzo a questi due, a questi animali che sono stati squartati, cade su di lui un profondo sonno. Un profondo sonno e un terrore, un'angoscia, al punto tale che Abramo non riesce a passare in mezzo a quegli animali. In mezzo a quegli animali passa solo la colonna di fuoco di Dio, che quindi sigilla l'alleanza unilaterale. Vale a dire, Dio si mantiene fedele all'uomo, che Abramo gli rappresenta, in qualunque situazione quest'uomo si venga a trovare. Ora, la stessa situazione si viene a creare al Getsemani. Nel momento in cui Gesù cerca la solidarietà dei discepoli, i discepoli sono appesantiti dal sonno. E allora l'Evangelista sembra dare quasi una sua lettura, una lettura che richiama proprio Genesi 15, per dire Dio, nella figura del figlio amato, sta ancora sigillando l'alleanza, in questo caso la nuova alleanza che era stata evocata anche durante la cena, l'ultima cena con i discepoli, sta sigillando questa nuova alleanza in modo del tutto unilaterale. La nuova alleanza che porta a pienezza l'antica alleanza si pone in piena continuità. Dio la sigilla in modo unilaterale, indipendentemente dall'uomo che si troverà di fronte, indipendentemente dal sonno, dal silenzio dei suoi, dalla lontananza fisica, spirituale, morale dei suoi. Ecco, allora la profondità di questa scena, quel sonno dei discepoli da un lato dice la loro lontananza, dall'altro però mette ancor più in evidenza la grandezza della fedeltà di Gesù. Allora, prima di chiudere il nostro commento con gli ultimi due versetti, facciamo ancora uno stacco musicale. Vi chiederei quindi anche adesso di rileggere questi quattro versetti, ponendoci questa volta nell'atteggiamento di essere attenti alle disposizioni dei discepoli, quelle disposizioni dei discepoli che a volte sono anche le nostre disposizioni nelle nostre relazioni, nei nostri impegni, e lasciare che questo, ecco, scenda dentro di noi. A questo punto leggeremo gli ultimi due versetti e cercheremo di capire la chiave un pochino interpretativa di tutto questo brano. Lasciamo lo stacco musicale. Ecco, dopo aver riflettuto quindi sull'atteggiamento di Gesù nel suo ingresso nel Getsemani, quindi con questo suo profondo bisogno di condivisione, e dopo aver visto la reazione dei discepoli che abbandonano praticamente il loro maestro, sono presenti fisicamente, ma solo con la presenza fisica, non sono in grado di rispondergli niente, reagiscono a questo bisogno di condivisione di Gesù con il sonno e con il silenzio. Ascoltiamo adesso come termina questo brano. Lo ascoltiamo rileggendo il versetto 41 e 42. Venne la terza volta e disse loro: voi dormite ancora e vi riposate? Dio se n'è andato. L'ora è giunta. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi. Andiamo, colui che mi tradisce è vicino. Ecco, sono solo due versetti, ma ancora una volta sono versetti carichi di intensità e di significato. La terza volta Gesù torna dai discepoli e il gesto di svegliarli assume un altro significato. non solo li sveglia, ma li invita ad alzarsi e a prepararsi al combattimento, cosa che vedremo non saranno in grado di reggere, perché subito dopo fuggiranno uno dopo l'altro, altro che alzarsi e affrontare il combattimento. Però tutto questo è preceduto da una constatazione. Gesù constata che i suoi dormono ancora e cercano di riposarsi. Notiamo, qui non va inteso quel dormite ormai e riposatevi come un imperativo, perché non è un imperativo, è un indicativo nel testo greco. Quindi è meglio intenderlo come una constatazione da parte di Gesù. Ma l'espressione più importante del versetto 41 è un'espressione piccola, che è stata tradotta in diversi modi anche dalla versione ufficiale della CEI, dalla quindi versione liturgica che leggiamo nelle chiese in un modo diverso. È quello che segue al voi dormite ancora e vi riposate, che noi abbiamo tradotto con Dio, fra parentesi, se n'è andato. La traduzione, la versione CEI del 2008 traduce con basta, l'ora è giunta. La Vulgata traduce con sufficit, l'ora è giunta. Ora, uno studioso tedesco, Feldmayer, interpreta qui il verbo greco che viene utilizzato, che è il verbo apeko, quale constatazione dell'allontanamento di Dio. Apeko significa appunto andarsene. Quindi il soggetto, lui dice, se n'è andato. Chi se n'è andato? Dio se n'è andato. Sottolinea questo esegeta, e la sua interpretazione la commenta subito facendo notare come Gesù specifica subito che l'ora è giunta perché il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, cioè non solo i discepoli si sono ritratti, si è ritratto anche Dio, e questo ritrarsi di Dio consegna Gesù nelle mani complete dei peccatori. La lettura di questo autore, che ha trovato una grande accoglienza da parte della critica più alta nell'ambito degli studi, si inserisce perfettamente nel quadro della teologia del Vangelo di Marco, perché il Vangelo di Marco, diversamente dall'Evangelista Luca o dall'Evangelista Matteo, tiene a sottolineare proprio la piena solitudine del Maestro nel contesto della pagina della Passione. Se il ministero pubblico di Gesù si apre sullo sfondo della piena comunione tra Dio e suo figlio, tu sei il figlio mio amato in cui ho posto il mio compiacimento, si chiude invece con la separazione piena dei due. Teniamo presente che questa scena con il momento dell'arresto, al versetto 50, chiuderà il ministero pubblico di Gesù, cioè da quel momento in poi Gesù non avrà più un'apparizione pubblica, se non quella che lo porta alla condanna a morte. Quindi si chiude con la separazione dei due che avviene qui al Getsemani, che è l'anticipo di quella progressiva spogliazione di cui la passione sarà poi la manifestazione più eclatante. Ovviamente qui è un po' difficile la traduzione di questo passaggio. Pensate, alcuni manoscritti hanno trovato talmente inedito questo verbo che l'hanno addirittura tolto, altri l'hanno corretto, l'hanno ampliato, per dire è un passaggio non del tutto chiaro nell'interpretazione e nella trasmissione del testo, ma a me sembra che l'interpretazione che fa questo autore tedesco Feldmayer sia quella che meglio risponde alla scena. Quindi come si chiude la scena del Getsemani, come si chiude questo processo del frantoio che sta schiacciando la vita di Gesù? Si chiude lasciando Gesù totalmente solo. Alcuni dicono, ma com'è possibile che Dio lasci solo il figlio? Ecco, questa solitudine del Maestro è necessaria per mettere in piena luce la grandezza del suo dono. Il suo dono è un dono, come dire, umanamente pieno. Gesù in questo momento si dona totalmente come uomo e ovviamente con la sua identità piena di Dio che si fa carne, si dona totalmente nelle mani dei peccatori, manifestando la grandezza del suo amore. E in questa grandezza del suo amore si traduce anche l'invito che fa ai suoi: alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino. Cioè questa consegna da parte di Gesù si manifesta con la consegna piena nelle mani di colui che lo sta tradendo. E chi lo sta tradendo non è uno qualunque, è uno dei dodici, uno delle persone che erano più intime, più vicine a Gesù. Ecco, cari ascoltatori, abbiamo percorso insieme questi 11 versetti del capitolo 14 che ci hanno portato nel contesto pieno delle Getsemani. Penso che per molti di voi non sia stato difficile riconoscersi in qualche modo nella vicenda vissuta da Gesù. Spesso chi vive una pagina di sofferenza, di malattia, di dolore, vive le stesse dinamiche, vive le stesse situazioni. Come Gesù non trova parole che siano in grado di accogliere il proprio dolore, come Gesù trova spazi e momenti di solitudine estrema, come Gesù si trova davanti ad esperienze come il terrore e l'angoscia che hanno assalito il Maestro nel Getsemani. Come Gesù si trova davanti a un padre che sembra ritrarsi, o a discepoli che sembrano, ad amici che sembrano ritrarsi. Ecco, qui in questa scena paradossale Gesù si mette capofila di ciascuno di noi, si mette a capofila delle nostre situazioni di sofferenza, quasi a dire che Lui le rivive insieme a noi. Lui insieme a noi chiede che sia allontanato il calice, ma in questo calice mette come primo soggetto, come prima invocazione, l'io di Dio, non ciò che io voglio, ma quello che vuoi tu. Lasciamo ora spazio ai vostri interventi. Penso che su un tema del genere le vostre domande, le vostre riflessioni siano più preziose ancora delle altre trasmissioni, perché permettono di ampliare ulteriormente il nostro raggio di riflessione. Quindi lasciamo un nuovo stacco musicale in attesa dei vostri interventi, a cui cercherò di rispondere nel miglior modo possibile. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì, buonasera padre, mi chiamo Giovanni e chiamo dalla provincia di Brescia. Mi dico? Innanzitutto la ringrazio per il suo bellissimo intervento che così ci ha svelato tanti aspetti di questo brano di Vangelo, che effettivamente si legge a volte in modo superficiale, poi soffermandoci insomma ci si incontra sempre con cose antiche e cose nuove, no? Ecco, io volevo chiederle questo, una cosa che mi ha creato questo interrogativo, e sperando di non uscire molto dal tema. Quando lei ha parlato del sonno, e quindi con questa accezione in definitiva negativa del sonno, no? Che questo un po' questo rifiuto anche di vivere, faceva l'esempio delle persone che per esempio a volte sono in momenti difficili e si lasciano, perdono questo sonno per trovare questo distacco. E riflettevo sul fatto che a volte in alcuni incontri di gruppi cosiddetti carismatici, oppure a me è capitato di vedere questa cosa durante un incontro del rinnovamento dello spirito, alcune persone sono prese durante il momento di preghiera da quei momenti che vengono definiti, non so se in gergo o se è una definizione più tecnica, il cosiddetto sonno dello spirito. E così faccio fatica ad abbinare, a capire il valore positivo, se a questo punto effettivamente un valore positivo di questo sonno dello spirito, rispetto a quanto lei giustamente ha detto durante il suo intervento. Ecco, volevo solo se poteva. Certo, grazie Giovanni per la tua domanda. Sentivo che stavi viaggiando, quindi questo mi dà modo anche di ringraziare tutti gli ascoltatori che vivono questo viaggio in compagnia della nostra comunità, della comunità di Radio Maria, è sicuramente una ricchezza grande per tutti. Allora, il tema del sonno è chiaro, io l'ho interpretato alla luce di questo preciso brano, no? Ma ci sono anche altri passaggi dove il sonno ha un significato altro, ha un significato diverso. C'è un'accezione negativa, e l'accezione negativa è quella che abbiamo rivisitato attraverso l'esperienza di Pietro, Giacomo e Giovanni, attraverso l'esperienza ad esempio di Davide o di Akats. Un altro personaggio che vive il sonno in modo negativo, se ricordate, è Elia. Ricordate Elia dopo il grande, fra virgolette, fallimento umano vissuto sull'Oreb per quanto riguarda l'uccisione dei profeti di Baal, che praticamente non è riuscito a convertire chi lui voleva che si convertisse, vale a dire Jezabele. Alla fine se ne va, vuole addirittura morire, non se la sente più di seguire il suo Dio, e a un certo punto si rifiuta di mangiare e dorme. E lì abbiamo l'angelo che lo sveglia due volte, la prima volta portandogli da mangiare, gli dice alzati, bevi e mangia, e Elia si gira dall'altra parte, si mette nuovamente a dormire, e quindi l'angelo torna di nuovo, gli dice ti ho detto di alzarti, mangiare e bere perché il cammino per te è molto lungo. E lì pare che Elia si sia convinto, abbia mangiato quel pane e con la forza datagli da quel cibo, dice il testo, camminò 40 giorni e 40 notti fino ad arrivare al monte di Dio, l'Oreb. Ovviamente in questi casi il sonno ha un significato negativo, il sonno viene visto come qualche cosa che porta la persona a estraniarsi dal disegno di Dio. Sono esperienze queste che non a caso coinvolgono grandi personaggi e sembrano un pochino fare da sfondo alla scena del Getsemani. Altra esperienza invece è il sonno positivo. Elementi del sonno positivo ne abbiamo anche nella letteratura antico-testamentaria. Pensate al sonno di Giuseppe, uno dei 12 figli di Giacobbe, quel sonno che diventa spazio della comunione con Dio al punto tale da poter cogliere in anticipo gli elementi che riguardano la storia della salvezza, la storia che riguarda il suo popolo, la sua famiglia. O nel Nuovo Testamento, più a portata di mano per quanto riguarda la lettura interpretativa, sono il momento del sonno di Giuseppe, il padre di Gesù. In questo caso il sonno di Giuseppe è sempre quello spazio in cui Dio riesce a manifestare, a anticipare alcuni eventi che stanno succedendo, orientando le scelte che Giuseppe deve fare, dalla scelta di accettare di prendere in moglie Maria, alla scelta di portare in salvo il figlio in Egitto, alla scelta di ritornare dall'Egitto nella propria terra. Quindi sono tutti dei momenti in cui il sonno viene visto come spazio prefigurativo particolare per alcune esperienze intense di comunione con Dio. Ora, l'esperienza presente all'interno del movimento del rinnovamento dello spirito va inquadrata ovviamente attraverso nella cornice del percorso proprio tipico di chi vive l'esperienza del rinnovamento. Certo, va sempre presa un pochino con le pinze, cioè con grande prudenza. Dire ho vissuto l'esperienza del sonno dello spirito, insomma, prima di dirlo io ci penserei 100 volte, però è un'esperienza che effettivamente è possibile fare, un'esperienza in cui la pace profonda che uno vive è talmente ampia da far spegnere quasi un pochino tutti i sensi per diventare un unico spazio accogliente di Dio. Però ecco, per arrivare a quello penso che uno, insomma, è un dono molto particolare che non è, insomma, alla portata di tutti, alla portata così quotidiana, bisogna, insomma, saperlo discernere bene. A volte, ecco, su questo magari siamo un pochino frettolosi, dicendo ho fatto l'esperienza del parlare in lingua, ho fatto l'esperienza del sonno dello spirito, ecco, sarei prudente. Quindi ci sono questi due aspetti, queste due dimensioni che troviamo attestati anche nelle scritture. Grazie Giovanni per questa sua domanda. Buonasera, sono Giuseppe da Milano. Mi dica Giuseppe. Volevo riallacciarmi proprio a quello che ha detto prima di me l'altro amico, ecco. Nel giardino del Getsemani io personalmente vedo proprio, diciamo, Cristo che sta vincendo le tentazioni, e in quei discepoli possiamo vedere anche un po' noi quando dormiamo. Cioè, Cristo stesso ci dice: vegliate e pregate per noi una situazione. Per cui mi sembra che il sonno sia come una risposta negativa dell'uomo a rispondere prontamente a quello che Cristo ci chiede. Lì c'è anche Satana che sta tentando Cristo, perché Cristo ci sta per salvare, sta accettando di fare la volontà del Padre, di andare fino in fondo, e quindi non sembra strano che quel sonno sia la vulnerabilità un po' dell'uomo, per cui senza preghiera, senza vigilanza, noi siamo molto più facili prede di Satana, del diavolo. La vedo così, volevo sentire la sua opinione. Grazie mille, aspetto Cali. Grazie di cuore Giuseppe per questo suo intervento, effettivamente lei coglie nel segno, giustamente ci ha richiamati alle tentazioni di Gesù, effettivamente teniamo presente questa caratteristica della narrazione di Marco. Marco tende a costruire un po' dei giochi letterari nella sua narrazione, quindi il ministero pubblico di Gesù sembra chiudersi così come si era aperto: da una parte la tentazione nel deserto, dall'altra l'ultima grande tentazione in un altro spazio, che è quello del Getsemani. Se noi dovessimo associare la pagina delle tentazioni, in questo caso scandite, ieri abbiamo letto nella liturgia romana e anche nella liturgia ambrosiana le tentazioni nelle versioni di Luca e di Matteo in base un po' alla liturgia in essere, notiamo che tutte le tentazioni si aprono con un'espressione ben precisa, che è la tentazione per eccellenza. Noi in genere ci fermiamo sulle pietre da trasformare in pane, sul pinnacolo del Tempio, sui grandi regni della terra, dimenticando che c'è una tentazione che sta alla base di queste tre, ed è quella frase ricorrente: se sei figlio di Dio. Quel "se sei figlio di Dio" è la grande tentazione dell'uomo, che viene fatta all'uomo, cioè Gesù viene tentato sulla sua figliolanza prima di tutto. Satana mette in dubbio nelle tentazioni la figliolanza di Gesù, e voi notate in questo momento nel Getsemani quello che Gesù, la preghiera di Gesù cos'è? È ribadire la sua figliolanza: Abba, Padre. Perché Gesù prega utilizzando questa espressione? Perché sa che Satana lo sta tentando proprio su questo punto. E allora la risposta che lui sta dando nel momento del Getsemani è gridare la sua professione di fede. E la sua professione di fede è riconoscersi figlio e riconoscere in Dio non solo il Padre, ma l'Abba, cioè il Padre nel risvolto più affettivo del termine, qualunque sia poi la scelta di Dio, perché poi, ok, Dio lo lascia solo, ma Gesù ha proclamato la sua professione di fede, la sua professione di fede. E teniamo presente, proviamo a fare una riflessione sui nostri momenti di sofferenza, di disagio, di peccato. Qual è la situazione, la tentazione per eccellenza del diavolo? La tentazione per eccellenza del demonio è rapirci la figliolanza, farci credere che Dio non si interessa di noi, che Dio se n'è andato, che Dio ci punisce. Ma quante volte nell'accompagnamento spirituale, nelle confessioni, nell'incontro con le persone, pastorale con le persone, la domanda di fronte alla sofferenza che viene fatta al sacerdote o a chi per lui è: ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Come se la sofferenza fosse la punizione che viene da Dio. È chiaro che di fronte alla sofferenza siamo tutti smarriti, però la tentazione del diavolo, dello spirito nemico, è questa: far sentire quell'esperienza come un'esperienza che prova la lontananza di Dio, che ci dimostra che non siamo considerati figli, che Dio non è padre. Questa è la tentazione, se sei figlio di Dio. Per cui è una visione distorta dell'essere figlio di Dio. Quindi grazie Giuseppe per questa tua domanda, perché ci ha portato veramente in un elemento di snodo importantissimo. Qui si gioca tutto, anzi aggiungerei una cosa: se voi notate gli stessi primi miracoli che Gesù compie nel suo ministero pubblico, almeno nel Vangelo di Marco, notate che si tratta sempre di demoni, di indemoniati, che si presentano a Gesù dicendo: ma cosa c'è tra me e te? Cioè, la voce del demonio pone sempre una distanza, cioè fa credere all'uomo che non abbia niente in comune con il suo creatore. Per cui la persona posseduta si sente talmente in una situazione di impurità, di peccato, di lontananza, che dice a Dio: tra me e te non c'è più niente. E Gesù reagirà proprio nel modo opposto, mostrando che quella persona che si considera tale continua a essere immagine e somiglianza di Dio, quindi è un tutt'uno con Dio, al punto tale che lui se ne prende cura e la libera dallo spirito nemico, dai demoni o da chi per loro. Quindi l'elemento centrale è proprio questo: la tentazione per eccellenza, se sei figlio di Dio, e la professione di fede per eccellenza di Gesù in quel Abba Padre. Grazie Giuseppe per il tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Gabriella. Io la ringrazio tanto per questa spiegazione, mi ha colpito molto la spiegazione del sonno di Abramo, che praticamente fa capo alla sua, diciamo, indegnità spirituale e morale di poter essere la controparte di questa alleanza col Signore. Perché? Qui in Quaresima ci dicono, anche leggo dei libri, di fare compagnia a Gesù nell'orto Getsemani, e io mi ero sentita molto indegna, dico: beh, come faccio a fargli compagnia, cosa vuoi che gli dica? Due parole di consolazione a Gesù che sta salvando il mondo? Cioè, mi sentivo impotente, e invece adesso so cosa dirgli, perché gli dirò: guarda Gesù, io dormo come Pietro. Non è possibile che io faccia null'altro che dormire come Pietro, però nella piccolezza della mia miseria e della mia umanità accontentati della mia presenza. Dormo senza colpa, ma sappi che sono qui con le mie sofferenze a fare compagnia a te e ad offrirle insieme le tue. E quindi quel senso di indegnità di poter fare compagnia a Gesù nell'orto Getsemani con la sua spiegazione si è dissolta. Allora, grazie Gabriella per questo suo intervento in cui porta un pochino la sua testimonianza, quindi la condivisione di come lei cerca di vivere un'indicazione che viene spesso richiamata nella pastorale ordinaria, no? Quella di vivere un momento con Gesù nell'orto degli ulivi. Effettivamente vivere un momento con Gesù nell'orto degli ulivi è qualcosa di molto, molto impegnativo, no? Se noi lo prendiamo sul serio è qualcosa che dovrebbe suscitare tante reazioni interiori. Certo, siamo attenti magari a non giustificarci troppo in fretta dietro il sonno dei discepoli. Se dovessi dare dei suggerimenti in merito a come è possibile fare compagnia a Gesù nell'orto del Getsemani, penso che tra i suggerimenti più semplici, quindi alla portata proprio di tutti noi, possano esserci questi. Il primo è quello di non lamentarci nel momento in cui qualche situazione di sofferenza ci tocca da vicino, qualche situazione difficile ci tocca da vicino, imparare a non lamentarci, a non diventare aggressivi, come spesso purtroppo succede. Un secondo atteggiamento potrebbe essere quello di visitare qualcuno che si trova in un'esperienza di sofferenza, ma visitarlo non per andare a portare una consolazione o delle parole banali, delle frasi fatte tipo: ma porta pazienza, ma vedrai, ma abbi fede, ma cerca, ma ascolta questo, ma leggi quest'altro. No, ma è presentarci da chi vive nella sofferenza, permettendo a questa persona di lasciare emergere ciò che sta dentro di sé. A volte la sofferenza più grande è il dolore fisico, certo, ma non è solo il dolore fisico, è il non poter raccontare ciò che si prova dentro. È chiaro che se uno va da una persona che soffre e gli dice: come stai? La prima risposta che questa persona dà è: così così, oppure come vuoi che stia, oppure vado di male in peggio. Questa è la prima risposta, però è il primo, come dire, è il primo aggancio che la persona ci lancia per dire: ok, ti dico questo, però fa uscire di più da me. e quindi è l'occasione per fare un'altra domanda, senza ovviamente essere invadenti o indiscreti, ma che permetta all'altra persona di dire qualche cosa di più di sé, di condividere, stare con Gesù nel Getsemani non significa stare zitti nel sonno e nel silenzio, ma saper dire quelle parole che non sono parole giudicanti né danno ricette facili, ma dimostrano, ecco, un coinvolgimento da parte nostra, un minimo di condivisione. E poi la terza dimensione concreta dello stare con Gesù nell'orto del Getsemani è ovviamente la preghiera, ma la preghiera solida. Io lo dico sempre, io vivo in comunità, io sono paolino, quindi con la mia comunità vivo dei momenti di preghiera ogni giorno, le lodi, la celebrazione, il vespro, l'adorazione, questo fa parte delle nostre giornate, del nostro quotidiano, ma una delle cose che dico sempre è che se in questo nostro pregare non ci mettiamo un po' l'anima e il nostro pregare è solo una sequenza di parole ripetute, come i bambini recitano le poesie, questa preghiera non serve a niente, serve solo a noi per acquietare la nostra coscienza e dire anche oggi ho detto il vespro, anche oggi ho recitato le lodi, anche oggi ho celebrato l'Eucaristia. Cioè vivere i momenti liturgici, vivere la preghiera significa entrare nel mistero e aiutarci vicendevolmente a entrare nel mistero, quindi pregare non solo con le parole ma con il cuore, cercando di rendere efficaci e forti per noi quelle dimensioni. Quindi signora Gabriella, vede, vivere con Gesù nell'orto degli ulivi è impegnativo, perché tocca a noi stessi, era il primo esempio, tocca il rapporto con gli altri, era la seconda indicazione, tocca il nostro modo di rivolgerci a Dio ed era un po' la terza constatazione. Grazie di cuore per il suo intervento. Padre? Pronto? Pronto, sì, sono sì. Elio da Cuneo. Mi dica. Senta, sì. Volevo chiedere una cosa, se poteva, perché non sono riuscito a guidare, ero in auto, rispiegare, e che mi ha colpito parecchio, il fatto del Dio non c'è più. Sì. Perché già davanti alla passione di Cristo, per me è già una cosa che mi lascia terrefatto, non si trovano parole, non riesco a trovare aggettivi, perché è talmente grande, cioè è una luce che t'accetta, non si riesce a capire. Questo però non l'avevo ancora sentito, vorrei mi spiegasse, riuscire a capire meglio questo Dio non c'è più. Mi ricorda il suo nome che non l'ho capito bene? Elio. Elio da Cuneo, va bene, grazie. Allora, signor Elio, questo è un passaggio, dicevo, molto delicato nella traduzione di questo testo, un passaggio del versetto 41. La traduzione non è Dio non c'è più, perché Dio continua a esserci, ma Dio se n'è andato. L'espressione greca che viene utilizzata in questo versetto è apekei, che è un verbo. E questo verbo viene tradotto, che in genere voi trovate nelle traduzioni, reso in modo diverso da una traduzione all'altra, perché effettivamente ha rappresentato una cruz interpretum, un passaggio difficile da interpretare. E la CEI lo traduce non con un verbo ma con l'espressione basta. La Vulgata, a cui la CEI probabilmente si riferisce, traduce con sufficit, è sufficiente, cioè sono arrivato al colmo, è compiuto, tutto è finito. Invece Feldmayer fa notare, attraverso tutta una serie di richiami grammaticali, filologici di questo verbo, che il verbo sottolinea che Dio se n'è andato, cioè è un verbo che noi potremmo tradurre con se n'è andato, sottintendendo come soggetto il Padre a cui Gesù si è appena rivolto. Questo perché le motivazioni sono diverse. Se il ministero pubblico di Gesù è stato caratterizzato sostanzialmente dalla piena comunione con il Padre e da una vicinanza sostanziale con i discepoli, il momento del Getsemani, che è il momento in cui Gesù viene chiamato in prima persona a offrire il dono di sé, il momento del Getsemani è il momento in cui tutto questo vive la sua crisi. La crisi però non è fine a se stessa, la crisi è per far emergere il soggetto, far emergere ancora di più Gesù con la sua libera volontà di decidere, visto che è di fronte a una scelta, è quella di entrare nel mistero della passione o quella di rifiutare praticamente questo mistero della passione. Questo momento di crisi si manifesterebbe proprio con la duplice crisi, la lontananza piena dei discepoli che non assicurano la vicinanza al loro maestro, quindi il sonno e il silenzio, e l'allontanamento del padre, quella che Dio continua ad esserci, quindi il testo non va tradotto come diceva Dio non c'è, ma Dio se n'è andato. Un'ulteriore conferma di questo sarebbe il grido sulla croce, perché nel momento massimo che rappresenta poi la chiusura della parabola umana di Gesù, è quel grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi quel grido che viene fatto sulla croce altro non riprenderebbe quell'altra espressione che era stata fatta nel Getsemani, Dio se n'è andato. Tra l'altro in tutti e due i momenti c'è un'altra caratteristica, un'altra sfumatura, in tutti e due gli eventi Gesù parla prima in aramaico, e poi viene tradotto dall'Evangelista, Abba Padre, ed Eloi Eloi lema sabachthani, quindi due momenti in cui c'è un tentativo da parte di Gesù di agganciare il Padre con la lingua affettiva e nello stesso momento la sottolineatura della sua lontananza. Ora, questa lontananza non butta un'ombra su Dio, perché la reazione solita di fronte a questa interpretazione è sì, ma Dio non può lasciarci da soli, Dio non è che non c'è più, Dio c'è ma si è allontanato dal figlio, si è allontanato dal figlio perché di fronte al dono totale di sé la scelta di Gesù deve essere una scelta totalmente sua. Gli esperti dicono se Gesù voleva difendersi da quello che gli stava accadendo, quindi dall'arresto, non era difficile farlo. Il Getsemani, chi è stato in Terra Santa lo sa, è praticamente ai piedi del Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi non è così faticoso da salire e una volta che si è in cima al Monte degli Ulivi, la strada che segue porta subito nella zona più desertica, tanto vero che chi percorre il Monte degli Ulivi vede sulla parte sinistra già le dune del deserto, e una volta che uno va nel deserto chi lo trova più? Quindi se Gesù avesse voluto scappare l'avrebbe potuto fare, non era nemmeno distante il deserto per fuggire, però no, lì nel Getsemani lui prende la decisione di affrontare e di vivere il dono nella maniera piena e totale, pur rimanendo solo dal punto di vista dei discepoli e per certi aspetti dal punto di vista del Padre. Tanto vero che la scena si conclude con quell'espressione alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino, cioè la scelta di Gesù di andare incontro alla vocazione che gli è stata affidata secondo la volontà del Padre, che però si ritrae, la volontà del Padre che si ritrae. Ecco, penso che questo possa ulteriormente aver chiarito questo passaggio che il signor Elio ci chiedeva. Grazie per il suo intervento. Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, sono Roberto, chiamo dalla provincia di Pistoia. Mi dica Roberto. La ringrazio Padre Giacomo per questa catechesi, per queste interpretazioni anche un po' nuove. Io volevo sottolineare e portare un pochino alla superficie un problema che è un po' latente, ma che secondo me ci può stare dentro di cui si sta discutendo. Ed è la situazione dei separati, i coniugi separati, famiglie spezzate, che qui sulla terra per certi aspetti di fronte a una morte che non è una morte, perché il coniuge resta, la famiglia resta, il sacramento resta spesso, però di fatto uno dei due viene abbandonato e tradito spesso. Io sono separato da 10 anni, ho 2 figli e da 7 lavoro sia nella diocesi sia nella parrocchia, anche in 2 diocesi, anche in quella di Firenze e per quella di Pistoia, lavoro accanto ai separati e spesso e volentieri noi prendiamo proprio il Getsemani come il punto più alto perché questo accompagnamento sia un accompagnamento cristiano, soprattutto quando la persona non è ferita, non sempre succede, anche purtroppo nelle situazioni più disperate ci sia anche le ferite fisiche, ma spesso proprio il sudare sangue, cioè è una passione psicologica, un dover patire psicologicamente, e questa ferita poi non si rimargina perché l'altra persona c'è sempre, e spesso i contrasti che ci sono nelle famiglie, anche per i figli, a volte soprattutto per i figli, diventano laceranti e continuano nel tempo. E quindi sottolineavo che questo abbandono e questo tradimento, il Signore l'ha preso totalmente lui dentro la sua passione, che è storicamente determinata ma continua tutti i giorni e si ripete appunto nelle nostre piccole e grandi passioni quotidiane. La nostra, all'interno di quello che viene chiamato giustamente da Paolo il mistero grande, forse per uno dei momenti più, per chi nella famiglia, nel matrimonio vede tutto e sbaglia, perché non è tutto, è sempre una prefigurazione di un mistero più grande, però comunque è una batosta. La ringrazio Roberto per questo suo intervento. Non le nascondo che mentre commentavo questi versetti, davanti a me avevo anche un'esperienza, ecco, affine a quella che lei ha raccontato, quella dei coniugi separati, e devo dire che la sua riflessione mi trova pienamente in sintonia, cioè questa pagina è una pagina che illumina chiaramente situazioni anche come quella che lei ha evocato. Dietro l'esperienza della separazione a volte ci sono molte di queste, delle cose che abbiamo evidenziato, che sono vissute dalle persone, la solitudine, il grande dolore per un abbandono che non viene motivato. Quante volte magari dietro una separazione c'è la scelta unilaterale di uno dei due coniugi, e magari si sono chiesti momenti di chiarificazione, sono state chieste delle motivazioni, e tante volte queste non vengono date. Ci sono separazioni che avvengono come fulmini a ciel sereno, inaspettate, e uno si sente come un giocattolo che a un certo punto non serve più e viene buttato via. Dolori enormi che non sono fisici, nel senso che non sono delle ferite fisiche, ma che sono psicologici, perché la persona si sente ferita nella sua intimità, nel meglio che ha dato all'altro, che è il bene che ha dato all'altro. Ovviamente tutti i beni hanno degli aspetti più egoistici e degli aspetti più altruistici, però è quel bene che viene rinnegato a volte dal rifiuto del partner, dalla separazione dell'altro, e non solo viene rinnegato, ma viene per certi aspetti cancellato. Ovviamente quando poi a tutto questo si aggiunge la delicatezza delle relazioni con i figli, che si trovano a volte a dover scegliere, a dover fare delle scelte che non dovrebbero dover fare, tutto questo si carica ancora di più. Quindi la ringrazio per il suo intervento, e non solo la ringrazio, ma la invito a continuare a svolgere quel servizio, quel ministero, direi, di sostegno a queste situazioni, perché sono situazioni che hanno proprio bisogno di uno spazio accogliente, di uno spazio di ascolto. Non serve di fronte a queste situazioni un giudizio, serve uno spazio di ascolto dove ogni persona possa esprimere, manifestare, lasciare emergere quello che porta dentro di sé, e tutto questo pian piano condurlo nuovamente nelle mani di Dio, perché sia Lui a guarire le ferite, Lui che conosce i cuori e tutto quello che questi cuori hanno vissuto e sperimentato. Davvero grazie quindi Roberto per questo tuo intervento. Salve, buonasera. Sì, con chi parlo? Sono Damiano. Sì. Niente, io vorrei fare una riflessione sul discorso dell'allontanamento di Dio, insomma, da Gesù, del Padre. E poi, insomma, lei mi potrà dire, insomma, se le mie sensazioni, insomma, corrispondono un po'. Cioè, io vedo quanto Cristo chiede ai discepoli di stare con lui, cioè, quando dice la mia anima è trista fino alla morte. È come, mi richiamo un po' all'annichilimento di Dio in Cristo, cioè resta lui come uomo a prendere i peccati su di sé. Ma e quindi anche, diciamo, i discepoli sono presi da paura, perché in quel momento è come se Gesù, cioè se il Dio quasi non ci fosse, però poi lo ritroviamo, come dire, quando poi alla risurrezione i discepoli si rendono conto che, cioè, Cristo è Dio e si manifesta completamente, insomma, alla risurrezione. Niente, una mia piccola riflessione. Grazie Damiano per questa riflessione che ci porta proprio a arricchire ulteriormente questa dinamica del rapporto tra Gesù e i suoi discepoli, proprio per capire quello che tu dicevi. Bisogna richiamare forse i versetti anche precedenti al brano che abbiamo ascoltato. Li abbiamo commentati la volta scorsa, e proprio prima di entrare al Getsemani, a un certo punto Gesù si rivolge ai suoi e dice: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, ecco il duplice collegamento che Damiano faceva, dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. In quell'occasione Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E la scena al Getsemani avviene molto prima, viene prima di questo, quindi prima ancora del canto del gallo Pietro praticamente perde il contatto col maestro. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te io non ti rinnegherò. E, sottolineatura di Marco, lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi tutti i discepoli prima del Getsemani hanno assicurato fedeltà totale a Gesù, fedeltà totale di vita e di morte, di fronte alla vita e alla morte. E nel momento in cui Gesù sta facendo il passo più delicato, tutti si addormentano. E questo addormentarsi è caratterizzato anche dalla pesantezza degli occhi, è significativo questo simbolo dello sguardo che attraversa tutto il Vangelo. Teniamo presente, Marco è quello che riporta gli episodi anche dei ciechi sanati, non ce n'è solo uno, ce ne sono diversi in Marco, ed ora gli occhi sono appesantiti, quegli stessi occhi che erano stati rimproverati per i discepoli: voi vedete ma non comprendete, a un certo punto aveva detto in una delle traversate del lago di Tiberiade. Quindi la forza anche del messaggio che viene dalla scena del Getsemani, che mette in evidenza la presenza fallimentare dei discepoli, è legata anche a quello che questi avevano promesso poco prima. Nonostante questo, è chiaro che Gesù resta con i suoi, perché non è che, siccome succede questo, li abbandonano. Per Gesù i dodici restano i dodici restano amati, e non solo restano amati, ma restano le prime persone che lui vuole incontrare dopo la risurrezione. Ricordate le parole che dirà il famoso giovane in vesti bianche il giorno della risurrezione: è andate a dire ai discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Proprio quel Pietro a cui era stato annunciato il rinnegamento, proprio quel Pietro a cui Gesù si era rivolto, si rivolge nel Getsemani dicendo: ma Simone, dormi, non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola? Notate anche in questo passaggio, disse a Pietro: Simone, dormi, cioè l'Evangelista dice, sottolinea il nome, il primo nome, disse a Pietro, però Gesù si rivolge a lui chiamandolo Simone. Come mai, si interrogano gli studiosi, lo chiama Simone e non lo chiama Pietro? Proprio probabilmente per evidenziare questa sua fragilità. Pietro era il nome che aveva ricevuto da Gesù come discepolo, ora qui si manifesta non tanto discepolo, si manifesta proprio come uomo fragile, ecco che viene chiamato Simone. Oppure, altri dicono, è un modo per quasi quasi coinvolgere ancora di più Pietro, richiamandolo con il suo nome di nascita, con il nome con cui sua madre lo chiamava. E allora è quasi per sottolineare ulteriormente l'affetto che Gesù ha nei suoi confronti, nonostante la distanza di quel momento. Allora Gesù lo chiama con il nome che lo fa vibrare un po' di più, ma nonostante questo Pietro si riaddormenterà ancora. Quindi grazie Damiano per questa tua riflessione che vedi ci ha permesso di chiarire un ulteriore passaggio del brano. Pronto? Pronto, con chi parlo? Buonasera padre, io mi chiamo Claudio e telefono da Roma. Bene. Mi sono perduto perché mi sono dovuto staccare un attimo dalla radio quando lei ha parlato di non cadere nella tentazione diabolica di dire Dio mio perché mi stai facendo questo, perché mi punisci in questa maniera. Cioè, quindi come accettare il dolore e la sofferenza e come assomigliare ancora di più a Gesù che crede incrollabilmente nell'amore di Dio, nell'amore del Padre, perché se Dio è amore non può mai punirci, Dio vuole soltanto il nostro bene, ci ama incondizionatamente sempre, ma come sfuggire alla tentazione diabolica, direi alla fragilità umana, di dire perché mi stai facendo questo? Ecco, certo. Io la ringrazio molto e la seguo per radio, buona serata. Grazie di cuore Claudio, guarda, anche la tua domanda è interessante e la risposta che io darei è che la risposta la troviamo proprio nel versetto 36 e sta nella preghiera di Gesù, cioè come reagire di fronte alle esperienze di dolore. Poi preciso subito Claudio, una cosa è spiegarlo al telefono, alla radio, e una cosa è viverlo. Perché a livello di testa ci arriviamo tutti e poi quando si tratta che siamo sulla prova, sulla graticola, che bisogna viverlo ed è un'altra cosa. Però la risposta viene da Gesù. Gesù come risponde alla sofferenza? In tre modi. Prima di tutto la prima risposta è quell'invocazione, Abba, Padre. Quella espressione è una professione di fede, quindi ripetere, Abba, ripetere questa parola che ci ricorda che Dio è Padre. Quindi la prima cosa da fare nell'esperienza della sofferenza è non sentire Dio lontano da noi, non sentirci lontani da Lui, ma gridare Abba, Abba, Abba, tu sei Padre e io sono figlio, prima cosa. Seconda, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice. È la seconda dimensione con cui vivere la sofferenza. Vivere la sofferenza non significa allora ok l'accetto, no? Vedi, neanche Gesù la accetta in modo passivo, ma chiede a Gesù, chiede al Padre di allontanare quel calice. Ecco, di fronte al mistero della sofferenza è lecito chiedere il miracolo che una malattia, una sofferenza venga allontanata, certo che è lecito chiederlo e viene dalla fede il fatto di doverlo chiedere, perché Gesù stesso ci dice che ci si rimette alla potenza di Dio, l'uomo di fede si mette nelle mani della potenza di Dio e si affida alla potenza di Dio chiedendo di allontanare da lui quel calice. Però c'è poi la terza dimensione, e la terza dimensione è l'ultima espressione che viene utilizzata in questo versetto, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, ed è qui il passaggio più difficile, perché è quel consegnarsi nelle mani di un tu che resta comunque avvolto nel mistero, che ci addita una volontà difficile, a volte da accogliere, è quello più difficile da fare. Guardate, io come editore in questo momento sto curando, ho affidato un testo a un autore che narra la storia di una signora, Francesca Pedrazzini, che nella sua esperienza di vita si è trovata a dover affrontare con i bambini piccoli e tutto un'esperienza di tumore, di malattia molto, molto grave, e di fronte a questa malattia molto grave questa signora ha affrontato il tutto con queste, in queste tre dimensioni, possiamo dire, no? L'Abba Padre, il tutto è possibile da te, lontana da me questo calice, però non ciò che io voglio. E la serenità che ha attraversato un po' la sua malattia fino al momento della morte, che ha trasformato la sua morte in un momento di luce enorme per i presenti, al punto tale che il suo funerale è stato letto da molti dei presenti più quasi a una festa di nozze, più che a un funerale, è diventata una grande testimonianza di come la sofferenza vissuta in Dio può veramente trasfigurare l'esistenza non di una persona ma di molte, al punto tale che oggi come oggi la sua esperienza può veramente diventare una testimonianza viva per altri che vivono la stessa situazione senza negare i passaggi difficili. Quindi Claudio, penso che il testo biblico stesso possa in qualche modo dare una risposta alla domanda che tu hai fatto. Ecco, mi sembra che fosse l'ultima delle domande, quindi permettetemi di ringraziare tutti quelli che sono intervenuti: Giovanni, Giuseppe, Gabriella, Elio, Roberto da Pistoia, che ci ha portato a contatto con la realtà dei coniugi separati, che ringrazio in modo particolare, poi Damiano e Claudio di Roma. A tutti un grazie per aver arricchito questa nostra riflessione e a tutti anche l'augurio e una benedizione per un cammino quaresimale fecondo e vissuto in verità. Un caro saluto a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.